Ciao a tutti, ciao a tutte. Dunque, noi adesso siamo qui da Bologna e vi presentiamo questa iniziativa in una sorta di dialogo tra di noi. Speriamo che risulti una cosa chiara. Allora, intanto le iniziative, perché in realtà si tratta di una doppia iniziativa, si svolgeranno il giovedì 10 febbraio alle ore 19:30, partendo dalle ore 19:30, l'iniziativa prevede la proiezione del film di Sonia Devrier, Out, e poi a seguire un incontro con Silvia Baraldini. È previsto anche un buffet benefit e la serata di giovedì è riservata a donne lesbiche presso il Circolo Arci Iqbal Masi, via della Barca 24/3 a Bologna. Venerdì 11 invece, però dalle 19, serata aperta a tutte e tutti, sempre con le stesse modalità, per cui proiezione del film Out e incontro con Silvia Baraldini. Allora, adesso partiamo cominciando a spiegarvi chi siamo e che percorso di lotta ci ha portato a organizzare queste due serate, e vi passo Anna per questo. Ciao ragazze. Ciao. Allora, ciao. Allora, noi siamo un gruppo informale di compagne, veniamo da diversi percorsi di lotta, alcune vengono dalle lotte antirazziste e contro i centri di identificazione ed espulsione dei migranti e delle migranti, altre vengono dai percorsi femministi e lesbici legati molto alla lotta contro la violenza sessuale e alla lotta di liberazione delle donne e delle lesbiche. Puoi parlare a voce un po' più alta? Sì, allora grazie. Ci siamo incontrate proprio sulla storia di Joy, che è la storia emblematica che unisce le contraddizioni, quella del razzismo e quella del sessismo e dell'eterosessismo, cioè la violenza sessuale e anche la discriminazione razziale. Molte di noi si sono incontrate proprio sotto le mura dei CIE, cioè proprio materialmente, a lottare e a gridare contro queste istituzioni aberranti che abbiamo su tutto il territorio europeo. Lì noi compagne femministe già avevamo comunque contatti anche con qualche migrante, quindi conosciamo la condizione delle migranti, però abbiamo sentito da chi era dentro e urlava anche violenze contro uomini, non quelle sessuali, ma botte e altre angherie del genere. Per cui ci siamo anche un attimo appassionate a queste lotte per l'annientamento di questi nuovi campi di concentramento. E così abbiamo continuato il percorso insieme. Poi quest'estate c'è stata anche la questione di Faith, un'altra ragazza giovanissima nigeriana che si era ribellata prima a uno stupro nel suo paese, in Nigeria. Nella colluttazione è morto l'aggressore, che era un uomo potente, lei rischiava la pena di morte, è fuggita, non sappiamo con quali mezzi, in Italia. Qui ha subito un altro tentativo di stupro, ha cercato di risolvere in maniera legale chiamando la polizia, che poi non l'ha chiamata neanche lei. Al momento della denuncia della violenza sessuale subita, la polizia italiana l'ha deportata in Nigeria, dove la attendeva la pena di morte. Per cui c'è questa logica punitiva per le donne, per le donne migranti, ma anche per le donne italiane che si ribellano alla violenza sessuale. E comunque con questo gruppo di compagne ha deciso di fare questa iniziativa che comprende questo film Out, è un dibattito con Silvia Baraldini. Niente, adesso ti passo a Chiara per farti parlare un po' del film Out. Esattamente, perché è quello che volevamo sapere. Allora, la scelta di Out è perché la storia, Out racconta la storia di una donna lesbica che parte proprio dalle lotte lotte che appunto riguardano il suo ambito, insomma, quindi per poi arrivare ad abbracciare le lotte di liberazione. le lotte di liberazione degli afroamericani negli Stati Uniti. Lotte che noi abbiamo ritenuto interessanti perché hanno raggiunto un livello altissimo di forza e di contatti anche con le altre culture, le altre forme di lotta presenti negli Stati Uniti. Silvia Baraldini, quindi, perché quella storia l'ha vissuta direttamente in quegli anni. Ecco, questa iniziativa per noi è un confronto, ma anche un modo per riuscire a trovare nuovi strumenti e nuove prospettive di lotta, perché non dimentichiamoci che quando compagne si trovano a lottare contro i CIE, contro i carceri in particolare, quindi contro le istituzioni totali, la violenza repressiva dello Stato è veramente incredibile. Infatti proprio anche le compagne che più si sono impegnate, per esempio, nella lotta contro Joy, hanno visto i loro spezzoni di cortei, i loro presidi assaliti dalla polizia, hanno ricevuto denunce. E rispetto a questo anche è molto interessante rilanciare proprio la lotta su queste tematiche, perché evidentemente è la loro contraddizione più grande, ecco. Ok, e poi ci sarà a seguire un dibattito. Esatto, e poi ci sarà un dibattito dopo l'intervento di Silvia Baraldini e vedremo, ecco. Io vorrei farvi un'ultima domanda. Voi chi siete? Mai più schiave? È un insieme di compagne che lavorano da quanto tempo? Sì, è il nome della rete che si è creata e che appunto unisce un gruppo di donne che hanno diverse provenienze, femministe, lesbiche, radicali, compagne anarchiche, quindi diciamo sostanzialmente due filoni di lavoro che riguardava per quanto riguarda le compagne femministe il discorso sulla violenza e sulla violenza sessuale, e per quanto riguarda le compagne anarchiche qui a Bologna sono anni che insomma portavano avanti il discorso dei CIE, quindi è stato per questo un incontro, insomma. Sì. Va bene. Volete aggiungere qualcos'altro? No, direi okay. Che va bene così, Anna? Va bene. Va bene, grazie. Un'altra cosa, sul film out. Vi passo Anna. Ok. Niente, volevo dire che inoltre il film out è anche un film sulla solidarietà con le compagne che lottano in vari contesti e che stanno in carcere, praticamente. È un film che marca molto questa cosa sull'importanza di solidarietà su compagne che stanno in prigione in strutture totali, e per cui facciamo questo anche perché noi abbiamo subito denunce, manganellate, anche minacce non tanto neanche velate, proprio perché usavamo lo slogan "la polizia stupra nei CIE e non solo nei CIE".